brucia i campi di grano, i campi di grano bruciati dal sole, il vecchio su strada che porta su un sacco, il sacco portato da un vecchio su strada che porta la casa sul mare, il sangue che cola tra trama ed ordito di tela, grossa colore caffè. Il morto nel sacco chi è? Un giovane taglio alla moda con taglio alla gola, l'ha visto in paese si faceva gioco di un vecchio stanco, schermiva i passanti, celebrava la sua ansia e il tempo infinito che aveva. Straordinariamente ordinario quel peso morto e la fatica di portarlo su. Straordinariamente ordinario la corsa, l'affanno e trascinato tra le spighe d'oro, non respirare più. Arrivati alla casa, la casa sapeva ospitare, mostrava le scale, invitava a salire. Pare che dalla stanza del vecchio si veda il mare, salendo il primo gradino la scala cresceva di 3, al secondo 6, al secolo poi, se sei secondo qualcuno trascina, bestemmiando tra i denti, lamentando ai santi, i morti quanto sono pesanti. La gestazione dell'elefante, bisogna darsi tempo per dare tempo al mondo di darti qualcosa di importante. La gestazione dell'elefante. Straordinariamente ordinario, ambire a un letto comodo per regalarti il sangue. Straordinariamente ordinario, sapere l'infinito, accettare d'essere finito.